non ho mai mangiato. Ma io non avevo mai mangiato neanche calolichi, io pensavo che calolichi si usassero solo per pescare, invece mi hanno detto che si mangia. Ah, io quelli non ho mai mangiato, non lo so, non te lo so dire quelli, eh. Per esempio a me non piacciono neanche il boccone mio, sai. Ma nemmeno a me, mi rimango sullo stomaco, sotto il fil di cavallo. Beh, va bene, proprio il chivo, Ma le rimane arrivare, però basta via. Tu fai un ragazzo, un calloso. Tanto la gente che va alla macchina, ma il signore, davvero a me, c'è un sapore troppo strano, no? Sono cose che per me non esistono qui. No, è vero, è vero, quello lì c'è un sapore un bel forte, ma forte però. Io ad esempio bocconi ho provato a cucinare quelli che beccavo io, facendo pesca su bocca, la beccavo anche a miligrussi, mi infermava. Però non mi sono mai piaciuti, diciamo che li cucinavo più che altro per la conchiglia, perché me le mettevo nell'acquario, quando avevo l'acquario era tutto fatto a conchiglie, cose di mare, eccetera, poi tutto eliminato. Li mettevo nell'acquario e facevo una sua bella figura, perché dentro era madre in perla. Cavagava. E tu non è cosa, ma sì, come non dire la voce adesso, non mai, c'è altre, ma ho messo le dimenticate. Forse ci ho capito, tipo Arsene, sono quelle grandi. Animali marini. Selle. Arsese. No, le vongole, Come fai tu le vongole con la pasta? Allora io le vongole con la pasta le faccio prima, le metto a bagno nell'acqua salata, in modo che tolgano un po' di sabbia, se non sabbia dentro. Si aprono e tolgono la sabbia. Una volta fatta così, li faccio soffritto con aglio e prezzemolo, le faccio soffriggere un po', e poi le metto nel sugo, e faccio la pasta con il sugo, oppure le posso fare così, senza mettere il sugo, la faccio in bianco la pasta, capito? Le scorsi un po' e le altre le lasci un po' col guscio, e quando la pasta è cotta le butti, le lasci un po' di acqua su, ecco, le butti dentro, ecco, e continua a dare una scottata la pasta così, giusto? No, per fa, non le sguscio io, la verità, a meno che qualcuno esca dal guscio così, però glielo faccio così, senza sgusciarle, però. Chi se la vuole sgusciare, se le sguscia, metto il piatto al centro delle cose, mettiamo la pentola dove abbiamo cucinato, quando siamo in famiglia facciamo così, mettiamo la pentola dove abbiamo cucinato la roba, al centro della tavola e buttiamo i gusci dentro. No, ma una parte scappa tutte senza sgusciare. Una parte mi piacciono che vadano ad aderire direttamente, che si mescoli con la pasta, capito? Che ci vogliono che si mescolano con la pasta, le altre le lasci col guscio. Gli dà un tocco più di sapore anche alla pasta, dai. Le piacciono così. Gli dà una scottata, proprio una bella scottata. Le lasci un po' al dente, la metti nella scottata, dentro la paella grande, beh. Ah, dimenticavo, io metto anche il peperoncino, mentre il peperoncino lo faccio soffriggere insieme a loro, poi lo tolgo. No, il peperoncino io non lo metto a braccio di stomaco. No, a me non la verità. E vabbè, dipende dalla persona. Dipende, noi il peperoncino lo mettiamo in ogni cosa, ma molto graduato. Non lo mettiamo che ti faccia sudare come fanno certi, come ti vuoi accesa, io ogni volta che mangiavo la pasta fatta da lui sudavo, mi scendevano le gocce. Il tovagliolo che c'avevo per pulirmi la bocca lo usavo per pulirmi il sudore che mi scendeva. No, a me forse pure poco, ma mi fate male, buia, fa male un bel stomaco. E a me mi fa male anche se a po' di meno, ma perché ne mangio poco, perché per un dolce ho fatto la peperonata. Però mi fanno cazzo di me, se ne mangio di più lo solito, un gatto che è un po' lo che c'è, del Nord, abbogato di fumare tutta la vita. Anche a me quelli lì, mi stanno saliscendo, più che brucio di stomaco mi rendono pesantezza. Mi stanno tutto il giorno salendo e scendendo. A me lo sai cosa mi piace, come il pollo con i peperoni, cazzo, tanto mi piace. È buono quella. Sono un cazzo me, mamma mia, a mano di Dio, ma il peperoncino, io sono più che me, un cazzo non ci mi esce, Se devo prendere almeno 2-3 o 4 bustine pure prima di passarmelo, perché sennò cazzo me ne fa finire gli occhi. Beh, magari hai qualche allergia, qualche cosa, non riesci a digerirlo, boh. A me invece, se lo metto graduato, non mi fa nulla, tutto niente, la vita non mi... Eppure io un po' di bruciore di stomaco soffro, ma secondo me lo fa a me. Il periodo che mangio molto, se mangio molto soffro di bruciore di stomaco. Invece quando sono a dieta non so più cosa vuol dire bruciore di stomaco, capito? Tante volte anche il fatto di quello che noi mangiamo, che mischiamo, che facciamo, ti provoca questi bruciori. Ah, già, non so che cosa è successo, perché io prima mangiavo anche le pene, non erano arrabbiate, incazzate, mangiavo molto, molte altre cose piccate, non mi faceva mai niente. Un giorno avevo mangiato proprio le pene all'arrabbiata, insomma pure il conduttore, il caucamo, io questo mio è un gatto di mai in brusca, tanto questo è l'ultimo era in fede. E da lì poi mi sono accorto che da quel giorno, ogni volta che mangiavo, qualcosa di piccante erano cavolamari. Ed è sempre così, e all'epoca gli avevo detto anche al medico, non la mangiare più, cavola piccante. E dice, ma a me piace questo, piace quello. E dice, fare a me, che devo dire, che devo fare? Tanto poi sono da una volta, tutte le volte che mangio qualche cosa piccante, guai. Magari un po' di gastrite, tante volte lo fa. Non penso uscire, provarsi pure uscire dello stomaco dalle medicinali, perché a mamma le erano brutte queste uscite dello stomaco, dice che di cosa che deglutiva, che rimaneva, bruciava di stomaco da crepare, poi c'erano delle uscite aperte dalle medicinali. Ma tu pensa che, cioè, io prima c'ero anche per il me mi piace molto il salato ai polpi, però il salato ai polpi non c'è niente da fare, un pochettino di peperoncino, e io adesso lo mangio, però non lo so, sembra un diverso, eppure sono costretto a mangiarla così, non c'è niente da fare, se per farmi male, lascio perdere, però ti voglio una cosa, è diverso questo è vero, mi dà un bel sapore buono. Vedi, a me per dire i pulpi, per me la morte sua sono insalata. Non vi ne, a me quelli alla diavola li mangio, ma non mi piacciono come quelli in salata. Li mangio lo stesso, quando compri quelli piccolini moscardini, me li fai la diavola così, no? Mi piacciono, ma non più di tanto, non le mangio più di tanto perché mi piace di più questa salata, poco mi fa, che sono un altro tipo di polpo, però sempre, io quando li pescavo i polpi con la canna da pesca, molte volte, specialmente Alghero, mi è capitato di prendere i belli, con la canna da pesca sempre, attaccati all'esca frutta, Alghero per pieno, specialmente sai dove, alla Pinetta Muguri, di fronte a Pietra Mugur, il mare che c'è, che va verso Capocca, c'è lì, c'è pieno di polpo. E ne ho pescato 2 o 3 volte, di... Beh, anche da 2 kg, 2 kg a mezzo, da 1 kg, capito, belli. E li facevo insalata. Solo a me piacevano, per paglio che non li maniava in casa. Solo io, non mi bariavo io. Ma i polpi sì, insalata, è la morte sua. I polpi, ma no, i moscardini no. Come per esempio, come posso dire, la cosa odiosa. calamaro, quando sono fritti, però deve mangiare bene il gatto, anche se no si viene più. Sì, che li ho mangiati di più, li faceva anche mia moglie, li mette le zampette, ha detto il grosso suo, e li riempie con quella roba lì. Poi li mettevo sotto i calenti per chiuderli, così fai tu. Sì, sì, sì. Hai ottimizzato, no? Le dame, le zampette, ho ottimizzato, comincia. Ma io per tremo, no? Poi che ricordo di chi ho lì. Non è che sono male, no? Sono buone, per carità. Però, sinceramente, per me, la morte sua sono così qui. E è così, anche per dire, per quelle spinacine che compri, roba del genere. Io ho provato a farla con microonda, però che fai, tutta la sardosa ha messo, fritti c'era proprio il sapore buono, ma fatta la microonda e male di buttiti, bravo. Sabato il barista che mi occupare. Patatine fritte, tutto quanto c'è, tu poi ti portano l'olio, l'aceto per condirti di salata, tu c'è tutto qua. Vediamo, dai. adesso per quello domani vi prendo il numero del telefono e vediamo adesso trovo il posto. Gap a gap. Vincio, hai passato di porta. Altrimenti lo trovo. Bisogna telefonare prima però, perché il sabato, io mi ricordo che quel sabato che siamo andati noi eravamo bene, ci hanno fatto il posto, tutto quanto, eravamo bene, abbiamo mangiato anche, siamo passati anche la discesa, ci abbiamo mangiato fuori nella veranda, all'aperto, abbiamo fumato e tutto, guardate chi mi ha così fumato. Diciamo anche Natalino, se viene a Massimiliano e andiamo tutti quanti in pace. A noi ci hanno detto che quando vogliamo andare non ci sono problemi, però il posto c'è, comunque la mattina glielo chiediamo. Quindi se ti conosci una roba pure più abbondante, è al singuscio. Io mangio sempre prima il calamare, perché questi raffreddano non mi piacciono, quindi mangio sempre prima il calamare per tutti. Congelati sono di quelli saporiti, sono ben buoni. Quindi è stato per cambiare. Ma noi non lo stiamo guardando come di sempre, perché siamo di mari. Ma almeno cambiamo posto. E lì si mangia bene. L'ultima volta che sono andato abbiamo mangiato la pizza e frutti di mare. E ha fatto detto, mi fa, fammi sentire i frutti di mare, mi ha regalato un montone di roba. Ah, non penso. Un po' già ti fanno aspettare che non mi di niente. Sabato c'è un po' di gente per far servire le pizze, ma la cucina è tutta un'altra cosa. Se fai cucina e fai tutti cucina, allora ti servono prima. Ti servono prima perché se uno fa la pizza, l'altro cucina e cose, se lo prima uno e poi all'altro, invece è bello che tutti mangino così al limite, lo diciamo anche a Massi e viene, ci abbiamo quattro risate. Una cosa ti dico, che tu a uno non riesci a convincere, se vieni, più quella pizza non mangia, più di cui ha, che tanto è la madre, è la casa, e tu ti lavori bene. Grazie. Mandiamo a fare di anno e mangi di anche la pizza un po' sapita, Ah, fra, come te la saluta, no? A me mi ha regalato da prima, poi, ci intendi, Bastardo, adesso bisogna vedere, dai, come va la situazione. Ma penso che già ci servono tutti più o meno allo stesso momento, dai. Fanno coincidere le cose, perché se l'altra volta che ha preso la pizza di noi ha accettato un bel, ma un bel vero, ma chi vede un bel di ieri, era pieno dentro e fuori, era anche l'estate comunque, quindi può darsi che adesso le cose siano un po' cambiate. Ti invitiamo. Se tu paghi per tutti ti invitiamo. fanno. Basta che tu parli. E cosa te la fai della pizza gigante? Se mangi chi su, uno che non ve la fa a mangiarti tutto. Ha bisogno di mettere più roba in chi dell'agriturismo. Io ti sto dicendo che con Natale era ammenazzato, io ho lasciato l'insalata, citrioli, tutta quella roba, l'ho tutta lasciata, non ce l'ho fatta mangiarla, e io mangio, me. Io mangio, anche io mangio. Ma te la metti la roba, che sì, lo stecchino, sì. Dove c'è lo stomaco, che non si vede. Ma è stato ora voglio stare comodo. Così è. E quindi cosa fate? La piave la faccio. Devo sì, avanti per là. Com'è che non passate, lo sentite, sono un secolo più. Che scuola di magia. Aspetta, Sabrina Brilli. Aspetta, adesso va tutti, quando ti trovo, ti tiro il pezzetto, ti tiro. Aspetta, Iva Russo. Iva Zanicchi, cosa ne fa Russo? Grazie Cido. Che fa? Ciao, vada Cricco. Ciao, Luca, di là. Luca, che mi racconti di bello? Dove ti racconti? Niente di bello. Di bello proprio niente. 500 monete. Sono sempre fame, ragazzi. Prima non mi piace di pasta, prima, ma c'è sempre fame. Ma, andiamo a vedermi. Avrebbe messo l'Italia. Ma piace di pasta, fate cavolo io, ti piace? Insomma, non è che ci vada matto per queste cose, se la verità. Io mangio tutto e non è che rifiuto nulla, però anche mamma faceva una minestra con i cosi, con i finocchietti selvatici, era un bel buono, aveva un sapore, un bel buono. Però dovevi andare a farli, finocchietti, proprio quelli selvatici, andava mio padre a farli, li faceva lui, quelli teneri teneri. Poi li lasciava a bagno, così li lavava bene, faceva con quelli lì, ma la canta era buona. Vabbè, io non è che ne vado a matto, eh. Poi andiamo avanti, dai. Invece mi stai impattato, non ne vado, mi piace. Io il capofiore li mangio in due maniere, assuffugati, con le olive. E poi li mangio insalata, li mangio bolliti, fate insalata con molto accento, perché il sapore del cavolo non lo devo sentire. Fatto un piombo, mamma mia. Ti piace? Ma no, se fuga di una riva, no, non mi faccio lo stomaco, no. Per lei, l'unica cosa che non riesco a digerire. I cavoli sono pesanti, tre maniere sono pesanti. Ma fatto con l'accetto così non ti rimane sullo stomaco, perché l'accetto è corrosivo e brucia gli acidi. Vabbè, se tu se mi dai così per noi, io di notte mi digerisco, non mi manco sullo stomaco. Poi l'unica cosa è cavolo fiori, fatto con gli olive, quello che non riesco, facciamo scelta. Assuffugato, già ho capito. No, io già li mangio. Poi già, caffè, guarda che quest'anno ho fatto già due barattoli con i grandi di vetro di olive. Un barattolo c'è già partito tutto, vabbè. Ne ho dato anche a mia socia ad assaggiare perché giustamente mi ha comprato le olive lì perché le ha viste belle e sa che io le faccio. E me ne ha comprato un bel po', belli grossi, belli polpose. E si è appensato, mi ha fatto anche il taglietto, quindi io non ho fatto altro che metterci, che cambiare l'acqua nel giorno, poi ho fatto il condimento, che fosse il condimento, vabbè il sale lo devi azzeccare perché se non azzecchi il sale non serve a nulla. E gli ho fatto il secondo barattolo che faccio, già ho cominciato il secondo barattolo. Gli ho fatto 5 kg già, ne ha messi a bagno, questo sì, adesso sono quasi pronto al condimento. Quelle durano poche niente. Adesso vediamo un po' cosa ne esce già. Avanti, per fa, riprendi. Adesso stiamo a mettere in contatto, domani a stagione quello che abbiamo fatto noi. di rifatte pure. Quando le fai due o tre tagli diventano troppo molli, non fa. Invece con un taglio ci metti di più a diventare dolce l'oliva, però poi non rimane molto. E lo guardi a quanta è dentro tu? Per le montagne se ne fa due. Anche con due che rimangono belle dure, dai, croccanti. Se lasciate per un bel po' a bagno diventano muli quando non ho troppi tagli, perché penetra troppo liquido, capito, all'interno. Sì, vabbè, ma ci rimane di subito, ci andava. Io non ridò il tempo, finisce tutto di fare, perché comincia a sapore. Come comincia tutti i giorni a tavola, ci sono gli olive per la mangio un bel io. Mia moglie dice, basta già, che ti fanno male, non è per non darti, ti fanno male. Divento io proprio, perché poi come faccio la poca, mi piace non bene, ci mangio grumbare. Ma guarda, per le volte, forse quest'anno almeno abbiamo fatto fare soldi così. Ma se no, in realtà ne abbiamo fatto lì, perché abbiamo avuto anche a maggio, a Pasqua, ad aprile, di quelle che puoi immaginare, però non sono mai diventate morbide. Dipende anche come fai comunque. Dipende anche dall'oliva, tante volte, perché se l'oliva per appasso per sta facendo già un po' di nero, non serve più. Mia suocera, detto che c'erano, però avevano fatto da verde, erano diventate un po' nerine, no? E allora del divino servono più, si fanno molli quelle lì. E comunque, io guarda, quello che ho mangiato era proprio al dente proprio belle dure, belle di lusso. Quello che ho fatto io, ed erano anche un bel saporite, se ci ho messo un bel po' di sale, erano un bel saporite, fanno male, male. E te la assaggiate Antonio, questo amico mio, che gli fa di sempre la riva, ma non sai quale fa lui, quella selvatica, la lascia essiccare e la fa col sale, quella riva, la sera è buona. Quest'anno abbiamo fatto anche quella, non un po' di quella, però quella grossa e belle nere, e le stanno facendo, adesso fra un po' sono pronte anche quelle. E abbiamo fatto quelle facciamo sempre di quest'anno, abbiamo fatto anche quelle nere, però sono belle, belle grosse, fatto di caso sotto sale, ma cazzo devo dire un video quelle. Quelle selvatiche, quelle che sono piccoline, selvatiche non è che ci siamo solo a mangiare, avete roba lì, ma è bassa, c'è poca roba da mangiare, non hanno polpa, sono un po' secche, rimangono, ma quelle lì sono un bel buone, noi prendi un bel. Io c'era un periodo che le olive proprio non, più che quelle nere non mangiavo, le altre non le toccavo. Oh, ma 2 minuti di tempo che vado a smontare, se non va a finire, mi ha affacciato. Antonio si è dormito. Sono qua. Riprendi, rilanciati, infatti stiamo parlando di olive, ma non quelle di pecora. Già lo so. Ma no, pure a me già mi piacciono, già. Anche con le sfoglie o quelle nere. Sì, già le mangio, qualche volta abito e mi rimango. Eppure qualche giorno voglio provare io a farle, a voi come si dice. Tanto il segreto sta a non farle a male, capito? Spegnimi con la luce per favore, spegni. Il segreto sta a non farle a male, ma devi fare dolci, perché se no, se hanno una puntina di amarone alla fine di quando mangi l'oliva va anche bene, ma se sono troppo amare non si. Io ho fatto anche quelle verdi, ma un po' di quelle verdi siccome non ci stavano nel barato, me le ho fatte sott'olio, con olio per esempio il peperoncino, condite così, no? E sono tutte buone anche quelle. Anche io del peperoncino non ne mangio molto, Se avete quei problemi, no? Non fa, a me già mi piace, gli danno il sapore, e poi quell'olio delle olive lo uso per fare il coniglio, ne metto 4-5 olive per fare il coniglio, no? Ci metto quell'olio lì, che poco è buono. Avanti, Luca. Io sono su, qui, su, su, qui, ah, stai entrando, e vedo un bel volte a Rita, Rita ci sta un bel... C'ho il pezzo, come si chiama? Pezzo, senti. Io non c'entro, a me se mi fittava entrare in quei forum lì non c'entro mai, non sono mai andato. C'era anche quello della Croce Blu, però non ci sono andato. Mi sono iscritto dopo, cazzo, non sono più entrato. Ma non mi piace, ne ho visti i filmati che ho messo lì. Già, non è che entro sempre io, entro così, mi sto per... Così, per giocare in diamante, c'è anche il poker, ho capito? Non mi attira più intanto, dai. Ma mi attira perché c'ho amiche, vedi su Facebook, amiche, amici, c'è tutto il ciso, cioè, ci sono un bel di amiche mie, di vecchia data, quando eravamo ragazzini, stavamo in greffa. Insomma, ci siamo ritrovati come di persona, io mi fa piacere averle ritrovate perché non le avevo più viste in realtà. Ogni tanto me ne viene subito qualche richiesta, la vicinanza, cioè la vediamo un pochino. C'è un dove ne aggiungo? Non ne aprire, se non le conosci, mica stavo facendo un bel fregatore, si appropriano della tua passo, ti entrano dentro a Facebook, a te non ti fa più entrare a Facebook, guarda che mi ha fatto anche mi accomodare altra gente. Ho capito. Basta, se non mi conosco, basta non farla entrare. Infatti io così faccio, sto dicendo a lui, detto che se era una donna entrava, invece magari anche lui è l'onfio, si può una foto di femmine, ecco, ti fregano la passo, però se la appropriano loro, ti controllano tutto quello che c'è dentro e praticamente c'è gente che sa fare più di noi, perché siamo gli altri, che lì sono... Ne siamo nati dal diavolo, te la fregano la passa, dove tu non puoi più entrare, ti blocca a te, entra lui con la passa un passo. Già, si dovrebbe chiamare, si dovrebbe mettere nuova una ogni settimana, perché se non fai attento ti entrano e ti eliminano cose, eccetera, eccetera. Ho già sentito, anche così possono fregare. Ho già sentito quella storia lì. Ehi, ma non tu. Nel momento che tu hai la passo, che apri, aggiungi come amico una persona che tu non conosci, tu come tu lo stai aprendo, qualsiasi spazio lo puoi avere, ti la futti. Perché se hanno più intenzione ci riescono a farlo, capito? Non vedo problemi, gli hacker sempre vestiano tutti. Addirittura entrano nei banchi latte dell'Inps, cose dei carabinieri, diciamo, hanno tutti da tutte le parti, riescono a trovare tutti i banchi latte anche dell'arma, figurati tu quanto sono esperti. Sono la manetta di imbecilli sono. Sì, normalmente sto parlando, anche normalmente, così, senza dare contatti. Entra in un mattetti che ti animali e ti tolgono roba là, ti fanno un bel casino. Allora, su Facebook, un altro giorno, questa tipa ha mandato un avviso dove c'era scritto non accettate questo nome, vi frega la pasta, l'ha fatto anche con me ed è giusto che tutti lo sappiano. Se ci tenete agli amici fateglielo avere, capito? Sì, sì. Allora, bisogna stare molto attenti, bisogna stare. Lo so. Purtroppo c'è gente che ti attrae in certe maniere, magari ti mette la foto di una donna buona e tu vedi che è buona, ragazzi, quindi apri subito. Già lo so, pure arrivare a fare quello, come arriva. C'è gente che magari non stai attento, apri un programma e ti butta il virus, e sai sta, guarda. Gianni. Sì. Ma tu lo senti questo? Sì. Senti da una ragazza. Adesso poi non mi ricordo come si chiama, se quello lì. E c'era scritto, se ti dà gli amici, fallo girare, perché ha fregato anche a me. No, è un uomo, questo, si è arrivato un uomo come, per esempio, tu apri, guardi quello che tu hai, ma questo qua si introduce e ti manda dei virus. Com'è, ha avuto una puntata da operare, stava ancora chiedendo un cazzo perché mi sono dovuto comprare il computer nuovo. Ci vuole qua, perché non studiano altro che come fare a distruggere gli altri, cioè quello che li costruiscono lo vuole distruggere un attimo, però ce ne sono più di uno, che lo garantisco, perché anche la mia comare lì gli hanno fatto la stessa cosa, gli hanno, si sono impossessati della sua passo di Facebook, lei non può più entrare, non la fa entrare con la sua passo, e ha fatto via quello lì, capito? Lo so, purtroppo la sua volta c'è sempre qualcuno che non glielo lascia fare, capito? Una volta il cammino poi sbagliano anche trovano quello che non glielo lascia fare. Io per esempio so il metodo come bloccarlo e come rimandargli tutto il mittente, con gli interessi pure. Possono fare, ma lui perché l'ha fatta? Perché sono degli hacker, sono le persone pagate comunque, persone proprio pagate. Davvero? Che interesse ne hanno a fare questo? Hanno interesse, ci sono molti interessi del tipo degli industriali, del tipo che se io te lo voglio il computer, te lo voglio comprare un devi comprare il file nuovo e per metterli nel computer sempre dentro di esci a poterlo installare di nuovo se non ti abbia mettiato tutto e ci sono interessi addirittura per distruggere alcune case come proprio società come voi chiamate tipo Facebook è una cosa che sta sulle palle agli parecchi degli industriali di software comunque. Ed è uno dei programmi più frequentati che ci sono in assoluto. Prima era Badoo, poi Badoo ha calato e Facebook gli ha dato lontano. Nessuno non aveva idea cosa tutto fanno per inserirci nel cose di mondo di ricerca più, diciamo, più conosciuto del Google, e quindi tu non sai neanche che cosa fanno a livello industriale per distruggerlo, vero? Queste cose le vogliono distruggere, capito? Ci sono sempre tentativi da parte industriale, a livello industriale proprio, che vorrebbero annientarlo, capito? Perché è un, diciamo che è diventato il motore principale, dai. Vabbè, a proposito di acqua neolifera, vado a cambiarlo e poi torno. Come tiravi il cuore il cavo, non commetterlo, ma adesso è... Lo sai che io l'ho ricomprato proprio per la vite, cazzo, ed era spanata la vite. Beh, già portano quelli con dietro direttamente la vite, va, prima. Lo so, vabbè, oramai è fatto, sai cosa ho dovuto mettere? Una goccia di attacca all'interno del buco, ho avvitato la vite e poi gli ho messo una sopra la testina di goccia. E adesso l'ha bloccata bene. Ti voglio far sentire, ci stia con la capsula modificata, a vedere che cosa ne pensi. Con la sua capsula però modificata, cioè fatti tutti. Vediamo. Ah già. Quello stava rompendo le scatole, allora li abbiamo cambiati. Comunque questi qua sono molto migliori. Non vanno in casso più con la sui la vicina a bloccare, si avvitano direttamente, sono molto migliori. E poi quelle vite sono la scorciatura, se ti cadono non agati più, devi stare un bel attento perché secondo come la metti ti cade, non acciappi più, nemmeno così ti ammazzi, con la lente ingrandimento, giù di cada, niente da fare. Ora, vedi un po' come gira questo microfono, già gira bene, ma questo che è quello che ci avevi? Sì, quello no, uno di quelli che ho comprato, e ho modificato totalmente la capsula, gli ho fatto i pochettini, la capsula l'ho sollevata un po' e ci ho messo il cotone attorno, cambia! E adesso si sente bene, ma io preferisco sempre l'altro. Sarà quel che sarà, ma preferisco sempre quello che avevi. Allora adesso vuoi che ti faccia sentire la capsula che mi hai dato tu? Aspetta un attimo che ricambi. Capo. Oppure vorrei comprare quel microfono che ho visto, quel microfono che c'hai tu. Lo compro per l'anno 48. Quello li voglio fare una modifica, li voglio mettere un'altra capsula, perché esce un po' nasino, ma il microfono è bellissimo. Lo vorrei sentire io, senti, questa è la capsula che mi hai detto tu, cambia. Senti, questa è bella. Allora, ho finito questo microfono, cambia. Te la fa più fina la voce, però già spinge. L'altro te lo fa più corposa, come l'altro non viene, come quello che hai messo tu del come cacchio si chiama quel microfono. Vabbè, il primo che mi hai fatto è quello che aveva il problema allo spinotto, per intenderci, dai, quello lì esce una radio favolosa. Quello è l'Amo International, la tua detto giù. La capsula originale è quella, per fare. No, non è l'originale, però è molto alta a misura per non ci sta dentro il CC, è troppo alta, non chiude il CC, non chiude, se no sarebbe stato ottimo come il volo, perché la voce è la stessa, però non ci sta dentro. Ho capito, e vabbè. Comunque, lui già mi mette che profondo. Per dire, alcuni microfoni, in un microfono te lo di una certa maniera, cambiandoli la custodia, il coperchio, là, diciamo, lo scheletro, quello lì ti danno diversa radio. Boh, è così, ma io l'ho messo così per essere uguale, non cambiava il volucro, non è direttamente una cosa necessaria, perché tanto è torno chiusa la capsula là. La stessa, in pratica c'è la stessa sede, come può essere il CTE, c'entra il tutto, va tutto dentro, però non chiude perché è troppo alta, capito? Ma così aperto comunque, se mi chiuso, la cosa, la situazione è la stessa, non cambiava. Penso che sì, certi microfoni magari cambierà, ma non credo che quello sia così. Eppure lo voglio provare quel microfono, quello della che è un bel bello, quello che ho comprato appiccato, provarlo col modificato, quello lì dovrebbe uscire bene. Ti parlo che era nasino, lo vorrei sentire io, l'ho fatto, vedere. No, bobina per fare in terra. C'è una bobina, l'ho aperta. Una bobina in terra. Ti farò sentire. Tanto quello lì parte già con il filo un bel lungo, per fa, non hai problemi di ruta. Facendo di nuovo perché sono un po' di mesi che non ci vado, però passando lì con la macchina, una volta che siamo andati a fare delle analisi con Liliana, siamo passati lì e c'era la macchina sua, adesso ci hanno dato il 05. Se la messa un po' a posto, dopo il depositivo, anche da via di Adda, dice fortuna innato con un furgone. Ma tu la sapevi la storia di quando ci va con la moglie con la catena nello sportello? Prendeci un bizzino, siccome ti va via la sera, te ne faccia da via buscare una catena. No, io ho conosciuto una volta che c'aveva una Ford Fiesta, a casa che c'aveva la parte dello sportello del lato passeggero, un soldato. Come è stato? Tutti hanno rifatti, cazzo. No, ma tanto sai cosa ha fatto? Ci ha prescritto dei barbecue da venduti a quelli del circo che c'è di fronte a noi. Uno l'ha venduto 500.000 lire. Cosa ha fatto pure? Ha fatto questi barbecue per arrostire. Ha inventato questi barbecue con metà damigiana, metà di quelle da mullane grandi, ma enorme. Ne ha messo le ruote, tutto quanto. Fatte da carrelli dei supermercati e da cui l'ha fatto ai fianchi, ne ha messo due trick che puoi alzare e abbassare la graticola per quando la carne, per dire, sta facendo fuoco che magari cade il grasso e cosa, la puoi alzare con i trick in fretta, si alzano e non si brucia la carne. L'ha venduto 500.000 lire in uno. Ne ha venduto uno al circolo e uno a uno di fuori, che era lì a bere, l'ha visto, ha toccato, me lo dai uno per campagna. Ma questo qui l'ha fatto per deciso, e dai, vedi, ma dai, vedi, me l'aveva venduto. Ha buscato tutta roba riciclata, i cricchi vecchi, dal ferro vecchio, dalle macchine che abbandonano le cose. Solo l'unica cosa che devi fare è che quando alzi i cricchi devi alzare tutti e due insieme. Praticamente deve esserci, e doveva studiare un braccetto che è tipo un albero motore che andava da una parte all'altra, che quando girava da una parte girava anche dall'altra. Lo voleva fare, ha detto che eliminava la manopola da quella parte lì e ci attaccava questo ferro, questo braccetto che faceva girare tutti e due contemporaneamente. Poteva fare uno solo mettendo questo braccetto sotto che univa uno con l'altro, li faceva girare insieme, ma i primi che ha fatto li ha fatti così tutti e due. Ma ti dirò che era una cosa funzionale, perché noi abbiamo arrostito proprio di persone, che ha trovato una graviglia mano a mano, si arrangiavi a fare tutto Vincenzo, sai cos'è? Si perdono le rifiniture, perché è bravo a fare le cose ma non si attenta a fare le rifiniture, è un po' rozzitto. Per dire, ha fatto questo tipo le aiole, ha fatto le aiole con le pezze di stintino attorno agli alberi, ne ha fatte belline, ne ha fatto la fontana, la fontana è un bel carina. La pietra di stintino l'ha fatta, tutta fatta bene, l'ha fatta lui quella lì, la fontana, il giardino, casa, vabbè, un po' di piatti non li ho piantati, che se cambia il pulito l'erba mi ha tutti sfrazzati, cazzo, invece la pianta che ho piantato io qua, non l'ho vista, pensavo che fosse erba, e vabbè, sì, che lo facevo a me, io lasciavo perdere, magari lo rimuove Edoardo, si attaccava, che cazzo, ma quando fai la cosa che non sei attento, Edoardo lo rubriava. Sempre un poco le cose in breccio, infatti così la carrora. Ha fatto belle cose, ha fatto il bagno del ciso, l'ha fatto tutto lui, mattonelle, piastrelle, tutto quanto è da fatto. più tappa pavimentazione del Cision, prima per qua quando c'era un'altra quella sede dove mi vedeva che cosa era, un troiaio praticamente, c'era presente, tutto cagato dentro, praticamente questa sede qua era nata per una società, avevano fatto i campi, gli spogliatoi, con le docce, con tutto quanto, lì era adibito tutto a spogliatoi, a docce, capito? Quello dove siamo noi. E niente, l'erba alta che copriva a me, la porta era alta, tutti fasciati, i servizi sfasciati, un casino io. E abbiamo un giorno che c'era una riunione della circoscrizione, sono andato io a parlare con quelli della circoscrizione, ho chiesto se mi potevano accettare, potevo proporre una cosa, perché mi era stato detto al circo se volevamo una sede che magari ci potevano dare quella, però dovevamo parlare della circoscrizione, se lui voleva andare a giocare a due io. E io ho esposto il problema, gli ho detto che avevamo un'associazione di volontariato, che praticamente ci volevano sfrattare da dove eravamo, che eravamo alla circoscrizione della Tedolci, e che non avevamo nessuna sede, e che c'era venuto in mente, visto e considerato lo stato di abbandono di quella lì, ci era venuto in mente di magari usufruire di quella lì mettendoci la posta a spese nostre. E subito ci sono stati. Hanno detto, va, ci fate anche il servizio di guardiania, roba, sì, ma certo, tutto c'è tutto 24 ore su 24, vai. Ha subito proposto la cosa, è stato votato subito a me, ci hanno dato nulla osta e abbiamo cominciato a tutta l'erba che c'era altissima, rovi di tutto, tutta moto, la cosa con la, come si chiama? Ma, e vabbè, con quella a fare per tagliare l'erba, non taglia erba, abbiamo tagliato tutto quanto, poi ha cominciato Vincenzo, ha cominciato a buttare tutto l'intonaco, c'erano i rubinetti, c'era tutto quanto, ha tutto chiuso, tappato, ha fatto l'intonaco nuovo, la pavimentazione tutta nuova, veramente la pavimentazione si era preso l'onere di farla compare Quattrassi, Antonio Manca. E invece è andato a vedere come l'aveva fatta, manco mai, anzi l'ho avvisato io, però mi sento invece a fare la pavimentazione, ma curli barocchi, tutto quanto si deve giurare di tutto. Vincenzo ha pigliato la macchina, siamo andati in pari, casa io già davo una mano a cavani tutto, era buttato subito da muglio, era tutta quanta dissestata, cazzo c'era tutto gonfiato il pavimento, tutto ondeggiante, un casino. Abbiamo tutto lavato bene con la pompa, meno male che era ancora fresco il maschile, cazzo. E l'abbiamo lavato tutto con la pompa, l'ha rifatto il pavimento, si è più mosso del chi. Sentite qualcuno che vuole entrare. Avanti, chi è? Avanti, chi vuole entrare? Nessuno. Aspetta, la portata sopra e poi intanto non vuole entrare. Sentivo il fischio. No, non ho sentito da nessuno. Io già ho sentito il fischio. Vabbè. Riprendila. Ti stavo dicendo, cazzo, abbiamo cominciato così. Abbiamo fatto prima la sua operativa. Poi abbiamo fatto la camera dove dormivamo, il dormitorio, e poi l'ufficio. Ci hanno dato tre stanze da metterci a posto. Beh, lo sai, quest'anno hanno fatto una coglionata. Hanno messo l'impianto a gas, praticamente della Medea, che passa attraverso le nostre sedi. È arrivata da noi, viene tagliato, poi riprende dall'altra parte, capito che basta. Non ce ne hanno messo quelli del comune di pianta a noi. Mi chiedo di pianta. Ma quella parte della circolazione è Monte Rosello, quindi. Fa cappa, sì, Monte Rosello. E praticamente noi era sempre, l'abbiamo fatto per tutta la risposta, ci siamo messi i condizionatori, anzi le pompe di calore, e quando è estate attacchiamo il fresco, quando è inverno attacchiamo il caldo e si sta da Dio. E una cosa, quelle di qua perché avevano sfrattato? Ci avevano sfrattato perché dice che volevano fare il set prima lì, volevano fare c'era sempre il cazzo questa cosa di fare il set, e poi non so che cosa hanno combinato, vanno a fare roba per la circoscrizione, non so che cosa, ho trovato belle scuse, noi avevamo due stati, se te lo ricordi, lì eravamo anche limitati un bel, ci avevano mandato via, infatti cazzo c'erano quelle che facevano i documenti su, no non ve ne andate, che qua se vengono tu, se ci siete voi almeno, cazzo non ve ne andate, e come facciamo, non ci sono mandati, è andato lo sfratto, come facciamo a non andarci, erano ben affezionate anche quelle signorine che c'erano su. Poi invece, no, non c'è più da questa parte, voi non la potevano andare. Poi, a sapere che è un casino, ma prima c'era i vigili urbani lì, mi sa, no? No, i vigili urbani erano in fuoco. No, no, dove ci eravamo a voi, adesso ci faccio il senso di soccorso. Quindi, se abbiamo una manica, ma i figli veri erano con noi, erano i vigili, era. Questa è la traccia di costruzione, vai, vai. Capace, capace, vabbè. Ma noi dove siamo? Stiamo bene, possiamo arrostire, lì non si poteva fare un capo, lì invece all'aperto possiamo arrostire per fare. Tu lo sai di meno che siamo fatti, lì tutti terminati arrostiti di carri. Il sabato notte quando c'era il notturno c'era sempre festa lì, mettevamo tanto a testa e via, c'era sempre festa. Poi chi doveva fare servizio non beveva. Altri poi se ne andavano a una certa ora, ma ci trattenevamo un bel, magari si doveva arrivare l'ultimo, se andavano a letto e noi magari scalziando lì facendo casino sino a tardi, e già ci divertivamo, là. E poi certo, avendo 12 dosi e ce l'abbiamo dovuta rifare, piccolina ma ce l'abbiamo fatta. No, perché poi la sera non ha fatto più. No, perlomeno se non l'ha fatta adesso, se si arrivava mola, saldatrice, tutto tanto, attrezzato al massimo, si è fatto un armadietto dietro, anzi prima si aveva fatto, c'era un muretto lì, no, e risultava tra la roccia che c'è e quell'altra l'hai vista, e questo muretto risultava una specie di andito così, no? Lui gli aveva messo di quelle pignatte, me l'aveva fatto diventare duro, l'aveva tutta lisciata, fatta cemento, aveva fatto la strada per passare dietro il muretto, ci aveva fatto la cuzzina con la pelo tutto quanto, la chiamavamo Villa Marrusso. Ma aperto? La chiamavamo Villa Marrusso e faceva, ma no, aiuto, prepara i piatti, mangiamo. All'aperto, e all'aperto, e c'era praticamente, era all'aperto, però c'erano gli alberi che facevano da tettoia, capito? Li aveva fatto poi, aveva messo da una parte all'altra, aveva messo delle travi per fare la tettoia quando pioveva, aveva tutta quanta fatta mai, non sopra, ci aveva fatto, come fanno nei cantieri, aveva fatto lungoso. Dopo un giorno è partito in Corsica, l'abbiamo aperta, avevamo caricato il Land Rover dietro, tutta quanta la roba sua, tutta la mondetta dietro, l'avevamo tutta. Sono stato contento quando è tornato. Cazzo, non è tornato, la roba mi è rimasta toccata, cazzo, tu non sei a casa due, non capisci, avevo detto, sono tu a casa due, non puoi fare così, così, ma noi no, qua, rompono le palle, quindi, nella circoscrizione, se vengono a fare un controllo, si trovano questa roba qua, e si così, si accampati. Cucinavano lì tutto qua e davvero ci aveva lo scarico tutto quanto, gli aveva fatto il buco nel muro, scaricava nella cosa, nella fontana, c'era lo scarico nella fontana e scaricava da lì. Infatti, avevo fatto mira a fraga, ma nel tutto rato, cazzando tutto rato, io, non me ne cazzavo. Non facevo male a nessuno, portavamene a casa, per non stare a Andorra, si ingucava il chili, tutto rato, sempre il chili, un pedo era sempre vino, si muoveva. Ah, E poi c'è bella terra. Anche a Bella ce l'ha, me l'ho detto che è bella la casa sua, fatta bene. Comunque lì si facevano arrostite e coso, lì aprivi il frigorifero e trovavi il sale, il frigorifero, tutta la roba di Bugnaedo, fettine di cavallo, tutto visto che cazzo. Poi non mi ha più cucinato, non ha più cucinato nulla se non in graticola e basta. Allora, io vado, fammi la bassa, aiuto. Da bigliava andava a rimangiare a bar. Ho sentito il grido di Marcolino. La siccità del grido fa fame. Fa fame. E allora, fame già. Ha mangiato, adesso c'ha fame. Spegni la luce. La luce si accende. Ma un piccato. Dove sta Marras, quello che c'ha i bassotti? Sopra la porta. Ma dove? E allora? Vincenzo, l'otto parla di Marras. Ragazzi, ma c'è tocco, cazzo, non va a capo, ma c'è tocco. Senti sempre profumi. Da te lo vado di corruzione. E dove sta Roberto Mara? Se lo conosce Roberto? Sì, già conosciamo, anche fratello. Pagato, allo stesso palazzo Lucia Appidino, stava lì. Stava lì, tanto una cosa, non l'hai compreso allora. Cosa? Quello che hai detto tu, di abita Corrotone, hai detto. E c'è vero un papo di Corrotone. Ti avete soltanto... No, no, non so però, ma è proprio corrotore. Dove si è? E allora? Che domani è catalogato proprio, eh? E il cazzo è catalogato da noi lo sappiamo. Era lui con lui, l'ultimo se l'ha fatto, l'ha fatto lui. Infatti poi ne ha tolto i risultati. Se della fotografia del bus del bussario. No, non è quella. No. E comunque, cazzo, questa quale si va a c'era una cosa vergognosa, cazzo, perché il cazzo. Mi gonfi, no, cazzo. Ce ne sono storielle. Guardate, non c'è il quartiere americano? Ecografia, ma è tu, lei deve dimagrire, cazzo, il dottore era più grasso di me. E te dottore, quando ci piace mangiare, cosa ci possiamo fare? Come ti dico, cazzo, mangi lui, ma mani burundu. È vero, cazzo, allora quello è capitato anche a me, figlio. Dico, cazzo, ma di tu, ma qua, dobbiamo anche qua, sì, gli analisi non è che sono male. Però qua dobbiamo buttare sulla pace. Cazzo, me l'ha già mai dato la bambina. E sono tutto che lo stavo guardando un po' male, no? E mi ha fatto, dice, lo so, anch'io dovrei farlo. Mi è sempre detto che sono in faccia, già, uia. E beh, cazzo, potessi, da che pulpito viene la predica, cazzo, potessi dirlo, ma... Vabbè che loro hanno, loro ti dicono noi sappiamo che è così, poi se non lo facciamo noi, per noi è conto nostro, però noi dobbiamo dire al paziente che cosa deve fare, poi se noi non lo facciamo è peggio per lui, capito? Si trovava, siccome cazzo. Guarda, c'è stato un po' altro, secondo me era le due camici. Due camici qui da fare. Dove è? Perché non ci ha mai dato con due abbassa? Perché non abbiamo visto i quadrici, due braccioli, le case qua e comunque non pensava le mattine. E detto, ha detto a me, penso che non voleva aggredire. Non va bene così, magari che si bussassi. Certo, magari ti compri il bene tuo. cerebrale tuo, però c'è gente che non collega il cervello, come quello che ti trova, invece c'è stato decentrata quanto sei ingrasciato, a me mi gira talmente le palle, e una volta c'avevo questa signora che ogni volta che veniva in negozio con la gente, mi diceva, tanto si ingrascia sempre di più, ogni volta ti diceva così, una volta di sabato c'era tutta gente al banco salumi, io stavo mettendo le mozzarelle, stavo mettendo la roba, perché allora c'avevo la roba dei latticini, no? E questa cliente si è girata da me e mi ha detto, tanto si è ingrasciata da fare schifo, e io non mi ho girato per fare palle perché c'era tutta la gente che ascoltava. E gli ho detto, ma i soldi per mangiare a lei li chiedo. No, e allora si faccia gli affari suoi. Comunque già hai sbagliato, perché io come lo faccio il male a me stesso. Tu invece mi hai detto, fa male a me stesso, ma fa male anche gli altri, perché credo che ricordo che era medico. Beh, certo, era medico e dovrebbe dare anche il buon esempio oltretutto. E tu immagini se infatti paghi su, cioè invece la già scoppiato a lui su questo. Se la apri, alleluia, tanti giorni. Qua non sto scherzando, lo so perché conoscevo lì l'infermiere, ma capisco un fattore con il quale era in pensione di cosa rituale. E quello lì cattava la possibilità di sempre di whisky del Johnny Walker dentro l'armadietto suo. Che schifo, se lo metto a fare un servizio del genere. Sì, oltre lui c'è la mano, spiega, vai. Già, me la compresi la birra, già che si scende, che dottore mi ha... Cazzo, andava in bagno e si faceva la ciuccia. Ehi, ma io ti posso dire che ce n'era più duro, dai. Non era con il suo, ce n'era più duro. E come più duro che riusciva ad andare a questa fumata della sigaretta e poi c'era un po' le palle. E tutto qua, comunque quelli almeno. Se vuole non è che fanno una giustizia, dai. Però quando un medico beve, c'è la più duro che beverla. Quando non beve, il discorso è diverso, perché stai facendo un mestiere dove ci vuole lucidità. E quando lo sai, quando vuoi uscire qui, con lucidità non ce l'hai. Quindi fa male a se stesso, ma anche agli altri. A chi, secondo la tua capitella, non comprendo cazzo, non ce l'hai, mi dice malamente. Come la volta che gli ho portato quell'uomo che aveva appunto il ragno, aveva appunto un ragno in campagna e questo dottore non sapeva più decisi, ma io dove ci telefono al centro venire, come dove il numero centro venire, come il numero centro venire, chiedo agli infermieri, chiedo qua, chiedo, questo qui sempre urla, ma fateli qualche cosa, dottor, fateli un calmante, una cosa, ma vedete cazzo che si stava dimenandomi per dolori, stava ballando. Spero non capitare mai. siamo in mano di persone che non sappiamo chi sono, che cosa abbiano appreso da quello che hanno studiato, perché c'è gente che magari non è laureata e se la pone nel meglio di loro, come quello che avevano trovato, che faceva operazioni, metteva a posto la gente e poi hanno scoperto che non era laureato, hanno scoperto perché dovevano fare un corso, dovevano presentare la laurea, lui l'ha presentata ma era falsa, se ne sono accorti e hanno chiamato i carabinieri e hanno scoperto che era anni che faceva il chirurgo. È un chirurgo bravo, perché tutti quelli che hanno intervistato al televisore hanno detto che era bravissimo, non toglietelo perché ha salvato molta gente, ha fatto dei grossi miracoli. Che tutto quello che lui ci cresce, magari andiamo nella parte di su dove prendono gli appuntamenti per fare le operazioni e ti mettono in lista e magari sono tutti l'onfe che me chi l'ha azzeccato, sono diventati chi mi hanno i vici. Bella, bella, bella, proprio. Cioè, due, Chiappa. Tutta fatta bene, poi c'ha dei begli occhi, ha gli occhi verdi. È fatta bene, c'è il corpo che è diviso. È completa, proprio una donna bella. Sì, è bellissima, è veramente una bella donna. Vedi, non sarà mai tentato. Vabbè, esattamente. Non si sa mai. Magari avere una donna così bella. Sì, sai, sempre con la parola che ti vuole di gorra. Per quello non c'è problema, la trombo dalla mattina alla sera. Fa mancare nulla così. Va. Sì, ma quando sono così belle, lì stanno un po' di persone appresso, capito? E fanno proposte, cose, magari capita qualche tipo che è più bello di te e ti futti. Bello di me. Troppo usa. Ah! Non so. Ma se uno, se due, capisci, se due si vogliono bene, rimangono tutto lo stesso corpo. Se uno, se si attacca a un altro, vuol dire che c'è la T maiuscola, scusami. Perché? Ehi, vabbè, ma un attimo di debolezza può capitare come lì a te, anche se li vuoi bene. Solo che deve essere solo quell'attimo, a chi si la cosa persiste nel tempo, poi succede un casino. Già, io mi scherzo, poi c'è una cosa seria, le cose sono diverse. Devo fare bene con lei, non con altre donne. Davvero? Sì, Anto, ma è proprio l'occasione, fallo volare, hai capito? Io per dire, ho visto amici che la ragazza gli volevano bene, poi magari facevamo un festino in campagna, la ragazza non c'era, ci appava la dipa che vizzava e poi si faceva una crociera, però tutto finiva lì. Dopo che succedeva quello, la cosa era dimenticata e non è che si continuava. Infatti gli amici mi dicevano mai continuare perché sennò la donna poi le scogliete tutte per mettere fuoco, perché magari la tipa con cui stai lo dice la tua ragazza e dice guarda che ci siamo fatti una crociera, anche ci siamo innamorati, il tuo ragazzo bacia veramente bene, roba così, capito? E fanno bisticciare le coppie vere e proprie. Però io sono a pensamento, finché sei single va bene, ma quando sei con una donna no, queste cose te le devi dimenticare, cioè non, perché altrimenti ti prendere in giro. Se lo fa lei sei un grandissimo cornuto, se lo fai tu fuori di corretto, cioè non sta bene, dai. Devi, cioè io lo la prendo come una cosa seria, voi non so. No, no, ma è giusto che sia così, avanti che mi ha salutato lì, si tu si. Ciao, già come va? Bene, bene, e beh, com'è andata la continuazione? Un secondo, sapete no, no. Aspetta un attimino per far sapere cosa sta facendo con la frutazione. Sì, ho detto, lì come avete continuato voi? Sono uscito con coro, sono uscito un paio di birre, poi sono stato qua, ho controllato il piatto d'antenna di Sky e c'era un pescatore di linea a Grimbaggio. Ho preso e gli ho portato a quel coglione e gli ho detto ascolta, devi dare un piatto che è stato con la tira di birra, vai me lo compri e me lo porti a casa, gli ho detto. Se doveva dare di là e basta, cioè, e dopo ti pigliavi su di voi, chi vuoi tu? Tanto così mi interessa e sai niente. Niente, Ari. No, io sono andato là perché c'era mio figlio in piscina con mia moglie. E mia moglie mi ha detto, potevi restare, non c'era problema. Ho detto, cazzo, se lo sapevo, non sei stato con loro. Pensavo che... No, diceva, bene, non c'è problema, però visto così alto che non stai uscendo nulla, una volta che dico gli avessi a punto di vista non c'era nessun problema per me. Vabbè, io non c'è problema. Io mi sono fatto un giro così, così me l'ho fatto la cosa e te ne ho mandato a fanculo a quello, capito? Al limite me lo mangio, che me mangio per tempo, se insieme a voi, con te non sapete, non è niente. tanto per fargli vedere che non sono... perché il bambino se fa la patologia di lui ci vuole la stessa, fa la stessa. E poi ci vuole la fattura, sai, ci vuole la cosa, facciamo un sacco di cose di carattere, fai la cosa di piacere, fai così. E lui ho fatto passare le bottiglie, perché gli ho fatto fare con fa oggi. Ma bisogna se lui è coerente con quello che gli ha detto e te lo fa davvero, o se ti brucia. Sì, che me lo fa, no, gli è stato il filo, che non mi fate niente. Ho controllato le cose, si vede fino a giù, la TV, tutto a posto, quello ho chiesto, quelli di sopra l'ho mai aperto. Quelli qui che ti avevo in terra, è aperto, mentre si vede tutto, prima non si vedeva, si vede. Poi ho chiesto all'inquilino, gli ho detto, guarda, così così, ho detto, ma quando c'è stato di noi, avete parlato, ho detto, non avete parlato di me, lui ci vuole che parlasse, ho detto, guarda, ho detto, non lo metto opportuno, ho detto, chiedo, mi servono le firme, ho detto, da chiedere di diventare le antenne, altro che sono pronto, mi ha detto, quindi ho fatto schiantare, mi faccio sentire le firme, la parte mia, lui si è fatto alza. Ah, l'inquilino del tuo palazzo? Comunque non c'è bisogno delle firme di nessuno, non c'è bisogno delle firme di nessuno, tu hai il diritto e loro devono fartela attaccare, se no se tu vai alle scomposte di denunci, vanno lì e spiazzano casino a lui, capito? Che tu paghi la concessione ed hai diritto di farlo. Faccio la domanda, faccio la domanda per la concessione e poi lui se la fa di suoi, poi ho questo problema, questo così così, e se la concessione che avevo già la prima, la dice appunto che vado a battere, se ne vado a battere, sono andato via fuori, dopo un po' di tempo, poi se non lo vuole entrare, adesso voglio non voglio entrare la concessione, quindi faccio voglio io, non voglio, come voglio voi, faccio fare la voglia, mi fa domanda. Staremo a vedere, comunque bisogna lottare, Antone, perché anch'io ho lottato un bel, perché non ci ho passato io, però quella giocata va che si può dire. Avanti, Antone. Sono rientrato, era un attimino, anche sono entrato un attimino in cucina già piccolo, quindi eccomi qua, di cosa stavo parlando? Dopo condominio che lo deve far schiattarissimo, si deve mettere l'antenna. Ci sono problemi. Ma fa prendere i moduli, io so che c'è un piccolo problemino, fare quello che devi fare. E poi a lui lo fa schiattare tutta una volta. Bene, da quel momento la piazza. Perché tu hai il diritto di piantare l'antenna. Sì, io lo so già, tu mi sono detto. Tu mi hai questa città che c'era. Mi ha tagliato, quindi io devo dire che c'è pare di là. Non me la fai fatto dire. Vediamo dal giudice, quello che è. Si vedrà. Io ho abbastanza pazienza. A me c'è stato di fare i soldi. E lui prende il curatore. Passano le cose per rompi, ma sono uguali, ho preso il palo, poi le sapo subito e mi piazzo la testa, dal spiglio a me. Solo quella soddisfazione di quello che mi sono pigliato, non per altro. Perché non serve per mettere le salire su e fare come te vuoi, se vuoi il pallone del condominio, della sera a terra, giù. E allora devo niente, quindi sono tutti su. E allora cosa fai? Non penso che 25 condomini. Allora non deve installare questo, non ci credo a fare questo. Sono problemi suoi, le spese siete... Le tessuali se le paga lui, non li potete. Perché io dicevo, adesso ci ho pagato 1 milione di, per dire, 50.000 euro di... Facciamo 50 del gioco. Facciamo 10.000 euro di spese condominiali per questo processo. Io penso che non le paghino i condomini, la cosa della gente. Sono questi, sono problemi tu, sono anche tu. Fare le spese tue, no? Se io dico la causa. Se ti prendi un paletto, non si è vinto. Ciao. capito poco perché ho il guadagno un po' alto, cioè. Ma non c'è all'ultimo piano, non hai una possibilità di punirti anche qualcosa. Non è che abbia fatto questa cosa nei bracci, ma guarda, sto bene come sono lei. Sono uscito anche di peggio. Quindi per me, cioè salire qua su, uscire con il di macchine, come dire, vabbè, la cosa avanti, ho una, c'è sto stuzzo, per fare guai. Quindi ho pazienza. Sto a aspettare, non so di quelli che si precipitano con le dicono la vittoria. Piano piano me la godo. Mettimi il passaggio per cortesia. Me lo puoi ripetere il passaggio per cortesia, che non ho sentito. Ha detto che lui uscire con quell'antenino lì e come uscire con la mano vado a sessare il vecchio. E quindi ha detto che non ho nessuna fretta, piano piano già se la godo, già se la mette l'antenna, ma non interessa mettersela velocemente. Chiappa. Ma con un'antenna piccola, cavolo. Ma scusa, ma non sta all'ultimo piano. Certo che sta all'ultimo piano. Ha detto. È certo che sta all'ultimo piano. No, non ha la possibilità di inventare qualcosa. Per uscirla fuori, boh, non lo so. Mi dice che la medicina che non c'hanno niente da fare. Vengono qui e gli offro il caffè. Altro di altri a farle, così vedo dove sto e cosa si vedrà qua. Dovevamo dire se non avete niente da fare, che cosa fate? Io ho preso a fare, non c'è problema, una fila, quello che è, e così vedo dove sto. Che vi offre il caffè è una birra, comunque già lo sapete dove sta, lì siamo un più o meno, dove c'è quel negozio di lampada di dove mi avete preso il neo, dai. Sì, no, quello già lo so. Se non mettete da fare, che vi offro il caffè, la birra, quello che bevete. Cappala. Adesso vediamo. Sempre il sabato sera, sono sempre andato a raro. Perché fai le cose che non può fare settimana, normale. Dopo che esco dalla forza a fare la spesa per la malattia, che dà una di cose. Comunque, se... Adesso possiamo passare, dai. Arrivo lì su io, da Alessio di segnale. A lui bisogna chiederlo, lì. No, quanto? 2, 3, 4. 1, 6. Quanto? Sto arrivando qua alla casa, la radio buona. Buona, si sento, aspetta, mi sembra che qualcuno vuole mettere a chiedere. Già. Marito. Nino, dai. Adesso vi saluto perché mi sta facendo la biocco. Vi saluto, vi auguro una buonanotte. A domani, dai. Se no mi addormento e faccio molte figure. Invece mi metto a salutarvi prima e siamo a posto. Ciao, ciao. Ciao. Vabbè, ciao. E quanto ha detto però, dai? Quanto ha lì di segnale per altri? Segnale 1, radio 3. Segnale 1, radio 3. Radio, ti attivo che... Siamo domani, ogni giorno di mattino di sera torniamo, ok? Adesso mi hanno letto il sondaggino, quindi non dobbiamo fare nulla. Radio 3. Stiamo girando lì, allora grazie. Adesso mi ha chiamato, mi è meglio me. Mi ha regalato addirittura già poco fa, così dove da una condotta. Una bottiglia di vino mi ha regalato. L'ho aperto poco fa, ma sembrava ci sono morito. Ti volevo frenare. Era tutta la tattica. Buonanotte. E diabolica quella, non è accettare altro. Dai, buonanotte già, dai, ci sentiamo. Comunque la radio, secondo me non è 3, vabbè. Forse lui la sente lui lì, sarà 5, da te sarà 5, perfetta. Ciao, ciao, buonanotte. E io mi ha fatto piano di basso, mi ha fatto arrivare basso anche la radio. Comunque, anche lì se ne sta andando a letto, buonanotte. Certo, buonanotte, no, poi arriva a 5. Non sento basso di radio anch'io, se no. Vabbè, buonanotte, ciao a tutti, ciao. domani anche già lungo la battuta della coppa. Mi metto battuto fino alla grappa di piatto domani. Poi arrivo e faccio una settimana di metto per radiare. Con questa battuta della coppa c'è anche il battuto per la valigia lì. Anche una grappa di un arrivo va benissimo con una bomba. Adesso ci sono riuscito a sentire. Sono antenne molto indicate, dai. Ciao, buonanotte. Ciao, quella posizione magari spacca di più, cioè spingi di brutto. Ciao, buonanotte, ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte a tutti e due. A domani, ciao.